tu continui a dire porcheria, insulti tutti, interrompi, perché sei cafone nell'anima. Sei l'unico ebreo fascista che io ho conosciuto nella mia vita. Sei ebreo e fascista. Grazie, sì, Vittorio. Sei un fascista. Ciao, grazie. Ciao. Senti, scusa, fammi dire l'ultima. Aspetta, dopo la pubblicità, cosa. Però. Dopo la pubblicità. No, subito. Dimmi. Dì a Parenzo andare a fare in culo. Ciao, buonanotte. Ciao. Se non hai argomenti, stai zitto, pistolino. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Buonasera, cari amici. Non sono scappato. Sono qui al mio posto e non sono scappato. Parenzo, sei soltanto un coglione. Buonasera e benvenuto. Ma è un altro. Ma benvenuto che cosa? Ma sei benvenuto, la grazie per aver chiamato. Ma perché dici, cosa, Fabrizio? Ma grazie che cosa? Ma perché sui trans, ragazzi, ecco, ha fatto un altro che va a trans. Ecco un altro. Come quelli che vanno a prostitute. Essere odiato da quelli che vanno a prostitute, perché li ho definiti miserabili, quelli che vanno, non sì, le prostitute. No, quelli attento. Che vanno a trans, hai detto. No, quelli che vanno a trans. Certo, come no, ho detto. Quelli che vanno a trans, sì, che vanno certo, coi trans, hai detto. Come quelli ho detto. Che vanno coi trans. No, ma ti ripeto che quelli che vanno a prostitute. Non con le prostitute, aspetta, te lo ridico. Quelli che vanno a prostitute. Chi va con i trans, hai detto, è uno svalvolato, uno svalvolato. Uno svalvolato, assolutamente. Chi va a prostitute è un miserabile. E io entrambe le categorie. Voulez-vous un rendezvous tomorrow? Beh. We could try to say goodbye. Parenzo, coglione di merda, fai un passo indietro. Hai detto una cazzata gigantesca con questo fatto dei trans. Hai capito? Se l'avessi detta a qualcun altro della tua parte opposta, ti saresti scagliato contro se l'avessi detta a Feltri, vero o no? Ma Feltri non le dice cose chiuse come quelle che dici tu, perché tu sei soltanto un coglione, ok? Chi va a trans? Io lo considero un malato chi va a trans, sicuramente. Sei un bigotto, va bene? Sei una persona... Hai detto una cosa da chiuso, da fascista, ok? Sei un povero di mente, di spirito e di cuore. Vaffanculo, chiedi scusa su questa storia dei trans. Io propongo a tutta la maggioranza silenziosa, dopo le dichiarazioni di Parenzo, omofobe contro i transessuali, di fare un golpe. Fare un golpe contro Parenzo e buttarlo fuori dalla maggioranza silenziosa. C'ha pure ragione questo, eh? O no? In collegamento da Roma, David Parenzo, applausi! Per forza, applausi, l'unico che ormai resiste qui nell'azienda, all'interno dell'azienda, a presidiare l'azienda, mentre voi due scrocconi maledetti, uno un miliardario che veste come un pulciaro straccione, fammi dire, due scrocconi, uno un miliardario che veste come un pulciaro straccione, Cruciani, l'altro uno straccione pulciaro che vive da mesi come l'emiro del Bahrain. Questo siete voi due. Siete questo, un miliardario straccione che sta distruggendo l'economia del Veneto, perché senti l'albergo dove sei. Sì, l'albergo dove senti siete l'invidia. Vi farà causa. L'albergo vi deve fare causa, vi deve fare. Perché avete distrutto un pezzo di PIL. Voi dovreste pagare quell'albergo. Dovreste pagarlo. Perché quella allora, gente ragazzi, lì lavora. Fermi tutti, giù Parenzo che ha sbroccato, ha cominciato a sbroccare perché vuole evitare il problema principale. Che il problema principale è lui. Certo. E il suo odio nei confronti di chi va a trans. Non nei confronti dei trans, ma nei confronti di chi va a trans. Considerato un malato. Però, ragazzi, sì, odio, tu non li sopporti, no, cioè dici no, che sono odio. Malati, abbiamo ritrovati i file, no. Carta canta, abbiamo ritrovati i file, hai detto che sono malati. Lascia e non stare, ti nascondere dietro questa cosa. Lascia stare i file, perché più tardi mi è arrivata una cosa su di te, anche su Gottardo in parte, mi è arrivato un audio, stai attento perché... I leaks, se, esatto, i Parenzo leaks. Se, anzi, guarda, sentiamolo subito, scusami. C'è no, la, no, no, cioè, fermi aspetta, tutti, fermi. Giuro Roma, ci sono cose più serie di cui parlare. Ragazzi, la cosa più seria di tutte è che a me dispiace avere ragione, a me dispiace sempre avere ragione, perché avere ragione non mi piace. Poi in fondo mi piace essere un po', no, sotto attacco, mi piace essere sotto attacco, non mi piace avere ragione alla fine. Ma voi lo sapete perché è caduto il terzo commissario in pochi giorni della sanità in Calabria? Lo sapete perché è caduto il terzo commissario? Lo sapete voi, indagini, Parenzo e Gottardo? Sulla no, non è solo quello che è indagato, pare che la possa risolvere, sì, questa cosa. Indagine, però... Ex rettore dell'università, la moglie di Roma. Mi pare, non so. Io, ma lo sapete perché è caduto? Lo la sapete, moglie non vuole andare. Allora, intervista oggi a questo Gaudio. Motivi personali e familiari me lo impediscono di fare il commissario. Motivi personali e familiari me lo impediscono. Mia moglie non ha intenzione di trasferirsi a Catanzaro. Un lavoro del genere va affrontato con il massimo impegno e non ho intenzione di aprire una crisi familiare. Non vuole andare a Catanzaro la moglie. Ma ha ragione la moglie, ragazzi, io non voglio avere ragione. Ha ragione sia la moglie, ma ho soprattutto ragione io. Ho soprattutto ragione io, che in tempi non sospetti dissi una cosa. Questi sono cosentini, cioè di Cosenza, e dunque hanno un po' di acredine, un po' di rivalità nei confronti di Catanzaro. Ma io che cosa dissi? In regia, Ramelli, chi c'è? Poi mettetemi questa roba qua che io dissi qualche mese fa. Ma chi cazzo ci vuole andare ad abitare a Catanzaro? No, questa è di Cosenza, no. Sta a Roma. Perché dovrebbe trasferirsi a Catanzaro in mezzo alla merda della sanità calabrese, in mezzo a quel casino, in mezzo a quel delirio? Chi glielo fa fare? Giustamente la moglie dice: amico mio, resta qui, stiamo a Roma, siamo di Cosenza, che cosa andiamo a fare a Catanzaro? La moglie non si vuole trasferire a Catanzaro. Cosa dissi io? Mamma criticato mia, da tutti tempo fa. Adesso, Catanzaro, siccome la moglie di un ex rettore dice che non vuole andare a Catanzaro, prova. Dai, risentiamo il sottoscritto. Dove cazzo vai? A Catanzaro? A Catanzaro? Che è Catanzaro? Che cos'è? Sei mai stato a Catanzaro? Sei mai stato a Catanzaro? No, sono mai stato a Catanzaro. Non voglio dire niente. Sei stato a Catanzaro? E non è che uno va. No, sono stato a Reggio Calabria, ma tu come turista vai a Tropea, con tutto il rispetto. Voglio dire, non diranno Catanzaro, ma Catanzaro, ragazzi, Catanzaro. Ma ragione la moglie, in tutto questo, ragazzi, è il delirio della Calabria. Tre commissari, più tardi sentiremo il presidente della Calabria, il signor Spirlì, mio amico Nino Spirlì, cosa ha da dire sul possibile arrivo di Gino Strada. Ma in qualche giorno sono cadute tre persone, questo qua perché la moglie non vuole andare a Catanzaro. Ma vi ricordate gli altri due? Quali perle 10 piccoli indiani. Ma la Calabria, quali perle ci offre in questi giorni? Ma non la Calabria, quali straordinarie perle. Ma non la Calabria, i commissari, non la Calabria. Ma la Calabria, ok, ho capito, la politica calabrese, i commissari. Ma senti questo, vi ricordate Cotticelli qualche giorno fa, dopo aver detto che non aveva preparato un piano anti-Covid, in quell'intervista disse anche da Giletti: ma non ero in me, non mi riconosco in quell'intervista. Ma risentiamo perle calabresi. Io non mi riconosco in quell'intervista, non so che cosa sia successo, sto cercando di capire con un medico se ho avuto un malore o ho avuto qualche altra cosa. E quell'altro Zuccatelli, amici miei, Zuccatelli, che ha detto a un certo punto che il Covid, che le mascherine non contavano un cazzo ed era già fine maggio, nominato da Speranza, e poi ha detto a un certo punto che per prendersi il Covid bisogna limonare per 15 minuti di seguito. Ma questo offre oggi la Calabria? Ma che cosa meravigliosa è questa roba? Ma non è una meraviglia? Tu sei, Parenzo, tu sei lì a dire no, questo qua, le istituzioni non dovrebbero fare queste figure, ma noi godiamo, sotto godiamo per questa situazione, godiamo come matti quando vediamo uscire notizie come quelle della moglie di Gaudio, questo, che questo dice: io a Catanzaro non ci andrei. Io ti giuro, lo sai che stavo andando a masturbarmi, ma stavo andando in bagno, stavo andando nel bagno della mia lussuosa camera qui in questo albergo a masturbarmi dopo questa frase, quando la moglie di Gaudio ha detto io non voglio andare in Calabria perché non mi voglio trasferire a Catanzaro, mi volevo fare una pippa, ve lo dico chiaro e tondo. Avete fatto già delle schifezze là dentro, anzi adesso tra poco ho le prove di quello che state di quello che è successo là, aspetta un attimo, fammi sentire. Sì, aspetta, ho le prove di una cosa. Senti l'audio, Zuccatelli. Per beccarti il virus, cosa devi fare? Devi stare con me e baciarmi per 15 minuti con la lingua in bocca, altrimenti non te lo becchi il virus. Fermi tutti lì. Ma oggi c'è un casino. Fermi tutti. Parenzo pensa che chi va trans è un malato di mente. Parenzo, una volta ero liberato. La Zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Luciani, ti piace farti sfondare il culo? Fatti sfondare il culo, che ce ne frega a noi? Cioè, a noi ci piace la parrocchia tradizionale, tanta bella, pelosa, liscia, come cazzo ci pare. Ma non è perché se non ci piace siamo malati noi che non ci piace. Ma questo è matto totale, cioè io non ho mai detto, cioè ognuno fa quello che vuole, ma certamente se uno vuole prenderlo nel culo non è malato, come dice Parenzo. Ragazzi, ma io non l'ho detto in generale, cioè è sempre più in voga. No Davide, scusa, fammi dire questo, cioè ci sono seri professionisti che io conosco, li conosce pure Gottardo, seri professionisti, manager, mariti esemplari che non sgarrano di un millimetro, che contribuiscono al futuro dei figli eccetera, che però nel loro cervello ogni tanto hanno un tic che, e si vogliono fare un po' pervertiti, un po' pervertiti, d'accordo, si vogliono fare inchiappettare, ma qual è il problema? Qual è, ma perché devono essere malati? Pervertiti, cioè, pervertiti, lo vogliono prendere, ogni tanto lo vogliono prendere nel culo. Sono dei pervertiti, donne, può capitare anche agli uomini, scusa. Ma sì, ma ragazzi, dai, su, ma di che parliamo? Comunque, oggi fa scandalo un'altra cosa assolutamente banale, normale. Adesso so che anche su questo Parenzo avrà da dire, che ha detto il signor Pupo, signor Pupo, durante una puntata del Grande Fratello VIP. Mamma signor mia. Pupo, più tardi anche lui dirà la sua qui alla Zanzara su questa roba qui. Signor Pupo ha detto tutte le, una cosa di una tale banalità, se vogliamo, ma di una tale schiettezza e normalità che mi fa specie che qualcuno lo critichi. Ma cosa, cioè, normale? Di che cosa vogliamo parlare? Di quello che è un qualcosa che appartiene all'animo umano, cioè che appartiene assolutamente poi a quello che avviene nel concreto. Tutte le donne vorrebbero sposare un miliardario. Ma ora tu, tra un morto di fame e un miliardario, chi ma scegli? Che stupidaggine. Tra un morto di fame e un miliardario, alla ma fine cosa scegli vuol un miliardario. Dire? Ma è una sciocchezza. Ma come io gli voglio anche bene, ma è una sciocchezza assoluta. Cioè, non è che tu hai sposato una morta di fame, per esempio. Non ma hai sposato una morta di fame. Ma non vuol dire niente, ma che cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Ma non vuol dire niente. Ma che cazzo vuol dire quello che Pupo, conta se ti Pupo, innamori Pupo o no? Pupo ha detto una stronzata. Ma vai a cagare ancora con questo innamoramento, dai, su. Elisabetta Gregoraci ha sposato un miliardario e ha fatto bene se ha sposato un miliardario, perché tutte quante voi vorreste sposare un miliardario là dentro. No, non è vero. Sì, ma te lo dico guarda, io. No, ma non è vero. Io ti rispondo, ti rispondo. Sei un populista. Ma sì, populista. Populista. Io sono una scusate, vorrei un parere di Maria Teresa. Ragazzi, è tutto vero, è così. Riferito a quelle là dentro sicuramente, perché non mi risulta che nessuna ragazzi, di quelle dai, che starnazzavano fosse fidanzata con un cassa integrato di Melfi. Esatto, quello sicuro. Ma qualsiasi donna, se tu glielo chiedi, sì, o Briatore, vai ma con sì, Briatore oppure con... Ma no, ma assolutamente. Con, certo, con tutto il rispetto, un ma autista sì, dell'ATM a Milano, ma siete vai con classisti, Briatore e poi ti separi. Ma chiaro. Ma vai con Briatore e poi ti separi. Ma figure, ma mica no, sono tutte così. Parenzo, ma mica ragionano tutte così. Tu? Hai iniziato ma mica, a scopare quando lavoravi ma, a Tele Lombardia. Ma mica perché prendevi signori stipendi. Ma tu stai scherzando. Ma tu stai scherzando. Chi ti calcolava prima? Ma ragazzi, ma non è assoluta. A parte che non è assoluta. Aspetta un attimo, perché aspetta un secondo. A Padova chi è che ti aspetta, allora, aspetta un'altra persona. Mi è arrivata, aspetta un attimo, che aspetta, che è successo? Che è successo adesso? No, sentite, regia, mandate quell'audio che mi è arrivato poco fa, scusa, da questa cameriera di un albergo. Da una cameriera. Senti, ma senti, quale cameriera? Senti. Quale cameriera? Sì, sono quale una cameriera che lavora nell'hotel dove alloggiano, ecco, Cruciani e Gottardo. Aspetta, e volevo chiedere se secondo questi animali, se così possono essere definiti, esatto, sia normale, sì, oltre ad avere poco rispetto per la gente che lavora, perché hanno lasciato un porcile la stanza, ecco, le lenzuola vero, sporche, vero, non si sa neanche sì, bene che cosa, che vero, sinceramente vero, solo l'idea di toccarle mi viene ribrezzo. Per concludere il tutto, hanno pure portato via gli asciugamani. Io facendo questo lavoro ne vedo di tutti i colori, però a questi livelli. Allora, posso siete dire che è tutto vero, confermo. Siete te lo posso vergognosi, confermare. Siete. No, ma te lo, io te lo dico io, te lo posso confermare. Vergognosi. Nonostante io da e due giorni non mi lavo, puzzo come una bestia. Sta arrivando puzzo altro, come una bestia. Sta arrivando puzzo altro, come una bestia e due giorni che confermo, non mi faccio la doccia. Due giorni, confermo, due giorni. Se io sento adesso sotto le ascelle che sto un po' sudando in questa casa. Pensa, hai distrutto un albergo. Acre. Avete distrutto il buon nome di un albergo. Avete distrutto. Puzzo come una bestia, ma lo ammetto, due giorni che non mi lavo, puzzo come una bestia. Questa povera cameriera questa povera cameriera che mi ha mandato, che ha mandato questa cosa qua, adesso verrà pubblicata sui più importanti siti dei quotidiani padovani. Fammi allora sentire. Vespa, Bruno Vespa, Mussolini e il consenso, anche lui attaccato da tutti. Ragazzi, anche qui Vespa fa il suo mestiere, che è quello di raccontare una cosa abbastanza ovvia, che Mussolini aveva consenso. Poi su alcune cose non sarà vero, che ha fatto l'INPS, le solite cazzate su Mussolini, il diritto del lavoro, altre cose. Però viene criticato, addirittura qualcuno dice che dovrebbe intervenire la RAI per cacciarlo, per fare chissà che cosa. Ma viva la libertà di Vespa di dire il cazzo che vuole anche su Mussolini. Probabilmente qualche cosa inesatta, e Parenzo muto non dice nulla. L'avesse detto qualcun altro, sì, che non sia Vespa, lo avrebbe attaccato. Su Vespa invece sta zitto. Ma no, ma su Vespa sta zitto, il potere fa paura. Sentiamo Vespa, sta zitto su Vespa. Sta zitto su Vespa. Anche per altri motivi che dopo riveleremo. Anche per altri motivi. Anche per altri motivi dei rapporti segreti tra la famiglia Vespa e la famiglia Parenzo. E non solo Parenzo. No, Parenzo. Ma che sei matto tu? Quando mai? Da chi legge questo libro resta con gli occhi sbarrati, perché il consenso purtroppo, quindi un'ama temporale, ed è stato anche massiccio, ed è stato anche un consenso internazionale. Roosevelt, la sinistra democratica, portava Mussolini così. Ragazzi, Churchill, tutti quanti, anche i francesi, che pure c'avevano gli antifascisti che stavano là e che erano a testimonianza della dittatura, pure loro, lui ha avuto un consenso enorme, e l'ha avuto anche in Italia, per le sue opere sociali, parliamoci chiaro. Mussolini ha fatto la settimana di 40 ore, chi lo sa tra gli italiani, no, che la prima settimana di 40 ore l'ha fatta Mussolini? Tutti. Non lo sa nessuno. L'INPS l'ha inventato Mussolini, quanto lo sanno? I contratti nazionali, anche quello giornalistico, giornalistico pagati benissimo, lì c'è l'elenco di tutti gli intellettuali, i giornalisti pagati benissimo, tutti pagati per il regime. Insomma, era un sistema complesso, ma sì, insomma, sì, per... sistema complesso, sistema, allora, complesso, ragazzi, Federico da Trento, vai. Federico da Trento, vai. Ciao ragazzi, ciao Crucio. Dimmi. Volevo dirti, praticamente, chiederti una cosa, ma non ti ha rotto le palle tutto questo perbenismo che sta imperversando in Italia, nel mondo? Ma dov'è? È una roba veramente insopportabile. Per esempio su cosa? Non ho capito, fammi un esempio. Per esempio sul discorso di ieri, anche quello dei barconi, quello dell'altra volta, sì, di Libero. C'è la Barbuto che ieri ha detto che la colpa, bravo, sostanzialmente della morte del bambino, bravo, di sei mesi e della madre che l'ha portato su una imbarcazione precaria in inverno, eccetera. Esatto, corretto. Hanno rotto le palle, veramente uno non può dire più niente. Adesso ma hanno si dice anche tutto. Le regole su. Ma dite qualunque cosa. Cosa non può dire più di niente? No, dite Parenzo, qualunque cosa. Dite qualunque della... cosa. No, di no, che anche parli? Tu ieri non lasciavi mai parlare la, ma la ragazza. Sì, insomma, la ragazza la Barbuto, la simpatica Barbuto. E è una roba, dai, che tra l'altro, se guardi bene, sì, è relativa solo della sinistra. Sì, della sinistra. Lei è dato della stronza. Della sinistra. Della stronza. Ho detto che è una stronza. Sì, lei si è autodefinita stronza. Io ho detto che è una stronzetta, una tipica stronzetta proprio, una tipica stronzetta. E lei ha detto sì, sì, ma sono la signora una stronza. Barbuto ha detto, l'ha detto, ha detto lei una... che stronza. Manda, sì, in onda, sì, il file audio in cui dice io sono una stronza. Per me, allora, io oggi voglio che parli solo la Barbuto. Quando mi chiedi mi dai la parola, io dico Barbuto e voglio sentire solo Barbuto, solo Barbuto. Edward, provincia di Milano. Manda Edward, la parola, io sono una stronza, mandalo. Edward, dimmi. Ciao Cruciani. Dimmi. Ciao, il porco di Gottardo, anche quel pezzo. Dai, Edward, veloce, che qui allora, si sfumano, senti, se no, no col giornale radio, vai. Allora, io vorrei parlare con Parenzo, ma lui come si può permettere di dire che quelli che vanno con il trans sono dei pervertiti? Sì. Basta, dai. Giornale radio, giornale radio, come mai, via, come mai, allora, se lo può permettere? Giornale radio, giornale radio. In quale cazzo di mondo vivi? Apri gli occhi, Parenzo. Eccone un altro. La zanzara. Wait for me, world, wait for me. Wait for me, world, wait for me. Vai giù, se volete parlare al telefono con la zanzara, da fa l'80024-0024. Oppure se volete mandare uno sfaccio i messaggi, coppa WhatsApp 393-7171-701. Ciao Cruciani, a proposito della bambina di sei mesi che è affogata lì, fai schifo veramente, cioè non ho parole neanche per insultarti o per offenderti, ma da uno che il 14 di agosto era a Porto Cervo a mandare messaggini a Briatore, non ci si può aspettare altro. Goditi i tuoi soldi, coglione. non so neanche come offenderti, veramente. C'è una roba. Una roba. Boh. Oltre lo squallore, veramente oltre lo squallore. Oltre lo squallore. Boh. Ragazzi, vi rendete conto della enorme figura di merda che ha fatto il governo in queste ore? Cioè dire, dopo aver nominato Zuccatelli, costretto alle dimissioni, sto parlando del commissario alla sanità in Calabria, cosa che conoscono in pochi e che capiscono in pochi, il commissario tutti. Alla sanità hanno in Calabria. Hanno seguito tutti la vicenda. Nessuno tutti. Si rende conto tutti. Di questa vicenda qua. Che tutti. Cos'è il commissario, cosa seguito. Fa, cosa non perché fa. Perché pensi che normale? La gente sia scema? Perché la gente normale. Non che sa vuol che dire? Cosa fa il commissario in Calabria. Ma se tu non l'informi, non lo sa, certo che lo sa. Lo sa che siccome la sanità in Calabria non ha mai funzionato, gli assessori alla sanità non hanno mai fatto un cazzo, evidentemente, e allora c'è stato bisogno di commissariare la sanità dal punto di Vabbè, vista governativo. Comunque la figura di merda del governo è che prima c'è un signore che viene sputtanato in televisione perché dice di non avere fatto il programma, il piano anti-Covid, e poi dice che forse è stato drogato, eccetera eccetera, tale Cotticelli, sì. Poi nominano tale Zuccatelli, il quale Cotticelli e Zuccatelli sembra una comica, cioè sembra sì. Una comica. Questo Zuccatelli, vengono fuori dei video in cui dice che le mascherine non vanno usate, che i ragazzi devono continuare a scopare, che vabbè, per questo. Infettarsi bisogna limonare per 15 minuti, eccetera eccetera. Questo Zuccatelli costretto alle dimissioni dopo la nomina di Speranza, uomo del partito di Speranza. Dopodiché nominano un tizio che si chiama Gaudio. Nominano, tentano di nominare un tizio che si chiama Gaudio. Nunzio Nobis Gaudium Magnum Abemus, sì, beh, il quale zero. Però no, ma il quale però Nobis. Non si consulta con la moglie. Gaudium non si consulta Magnum. Con la moglie. Ma so, tu ti rendi conto? So. Non si consulta con la moglie. Ma cazzo, ma il governo! Il governo durante l'emergenza Covid. Ma scusa, amico mio, ma ti vuoi consultare con tua moglie che dice che non vuole andare ad abitare a Catanzaro? Ma quello della moglie, però, mi sembra niente. Più che altro anche la piccola indagine in corso, che per carità si risolverà ma in no, nulla. Ma lui dice che sarà assolto. Ma anche, sarà ma assolto, sì, ma lui ma dice non è chiunque, quello. Giustamente, però, anche il governo poteva fare una verifichina sulla persona che vai a nominare anche lì. Dai, ragazzi. Su. Io vorrei farvi risentire però, amici miei, un audio di qualche giorno fa su cui non ci siamo soffermati abbastanza per mia colpa sicuramente, che è quello del signor ce l'ho Galli. L'audio di una cameriera, certo, ce l'ho l'audio no, della no, cameriera. No, aspetta, aspetta, io. Lascia perdere la cameriera. Lascia perdere la cameriera, però ti voglio far ascoltare un audio di Galli perché i commercianti sono incazzati come bestie. Cioè i commercianti, proprietari di negozi di regali e non solo di regali, sono incazzati come bestie. Se con tutti facessero come voi, voi siete due scrocconi. Il virologo non Galli, una lira. Il signor Galli, aspetta, signor, che cos'è sto suono? Il signor Galli, signor Galli, dopo aver detto che è un 68 ed è stato sempre di sinistra, ma cos'è sto suono del cazzo? Che cos'è sto suono? Che cos'è il sto room, suono? Il room service che avete chiamato anche in camera, spese. Quello è il room service che allora, sta arrivando. Ragazzi, il Galli, dopo aver detto che è un 68 ed è di sinistra, e chi se ne frega, perché ha detto questo: sono un 68 e sono stato sempre di sinistra. Questa era l'accusa ha detto che gli ha fatto bisogna Zangarillo. Fare gli acquisti di Natale sull'internet. Gli acquisti di Natale sull'internet, amico mio. Gli acquisti di Natale sull'internet, ha detto. Sull'internet. Riascoltiamolo. I commercianti sono incazzati nei. Giustamente. I regali vediamo di comprarli su internet, vediamo di fare comunque, spero che tutti i negozianti che non potranno essere aperti si organizzino per poter avere una clientela anche in quel modo. Ragazzi, ma come si fa con la gente in difficoltà? Su, con i commercianti in difficoltà a dire una cosa di questo tipo? Ma è ridicolo, no? Non ha senso, dai. Non ha nessun senso logico. Veramente non ha nessun senso logico, dai. Vabbè, non questo volevo ricordarti che sull'internet abbiamo ucciso un terzo dei parlamentari. Per cui, sì, tra l'altro, è vero. Cioè, Di Maio, Di Battista sono finiti in Parlamento. No, la taverna sono finiti. Sì, giusto, non giusto. Fate, altro che Amazon. Però, scusate, non fate. No, è un sito privato anche quello, russo. Sì, è un sito privato. Ma che c'entra adesso? I parlamentari su Amazon. Ma che c'entra? La stessa cosa, la trovo una cosa più pericolosa. Ma no, ma posso dirti, ma d'accordo, va benissimo, hai ragione tu, però uno che dice gli acquisti di Natale fateli su internet, ma che ma sbagliando, non è una sua competenza. Gli italiani gli fanno lui dove è un cazzo suggerimento vogliono. Per non far file, code nei negozi, assembramenti. Ma non è un suggerimento, però è un il errore. Non deve interessare su però dove vanno a fare gli acquisti di italiani. Ha commesso un errore. In questo caso, in questo caso non è neanche un errore. una leggerezza, perché può mettere in crisi, allora, ragazzi, il commercio. Don Fanzaga, diciamo. Io vorrei tornare, io Don vorrei Fanzaga. Tornare su Don Fanzaga. Gravissimo, Don Fanzaga, detto perché Don oggi Fanzaga. Gravissimo. No, Don Fanzaga, perché ha detto non è la zanzara. Non è la zanzara. No, ma Don Radio Fanzaga, Maria radio... non è la zanzara, Radio Maria. Ma che c'entra? Ma cosa c'entra adesso? Quindi la non è un baraccone. Maria. È anche meglio. Siccome non è un baraccone, siccome non è un baraccone Radio Maria, ma è una roba seria, quindi non è un baraccone come la zanzara. Dovrebbe usare un linguaggio più, non diffondere puttanate. Ma perché, o fake non ho capito, news. Esprimere le proprie opinioni è sbagliato? Esprimere le proprie opinioni non sono opinioni, quelle dice che è un complotto. Certo che sono opinioni. Parla certo. A milioni di fedeli che potrebbero, allora, credere, allora, a quel che lui dice, capito? E allora, e dunque, beh, allora è grave, e dunque è grave. Che vogliamo grave. Fare? Lo vogliamo arrestare? Vogliamo come, chiudere Radio Maria? Ma è come, se, Radio è come Maria? Se Radio 24 diffondesse un programma la sera che dice parolacce, fa parlare nei negazionista. Ah no, questo già lo fa purtroppo. Stavo pensando. Però è grave perché l'autorevolezza di Radio 24 è un contenitore che non è questo il caso, fa parlare negazionisti, gente che dice parolacce, squirtatrici. Uno dice: ma che razza di radio è? Se appunto durante tutta la esattamente giornata. Quello che avviene qui. Molto grave. Quello che avviene qui. E allora se avviene è molto grave secondo ma me. Ma l'hai creato anche tu giorno dopo giorno. No, io sono qui a mia insaputa. Puta, non so come dice Zuccatelli, non so che cosa ho detto, non so che cosa mi hanno fatto. Non so cosa mi hanno fatto da 10 anni a questa parte. Nel mio, sì, il 27 del mese, nel mio conto corrente, non so cosa mi hanno fatto da 10 anni a questa parte. Allora, ragazzi, Don Fanzaga oggi è tornato sulla vicenda dicendo, innanzitutto riaffermando alcune cose, giustamente, lunga vita a Don Livio Fanzaga. Io ma sono nessuno contro lo vuole, tutto quello che dice Don Livio. Io sono ateo, libertino. Tendenzialmente, penso, diciamo, che di una parrocchia diversa da quella di Don non Fanzaga. Non monogamo, cioè, mai monogamo. A me piace monogamo. La gnocca, Don Fanzaga no. A Don Fanzaga vabbè, no. Lo sappiamo, io sono a favore di tutte le cose che Don Fanzaga reputa, come dire, no, reputa tremende, reputa volgari, eccetera, eccetera. Però lunga vita a Don Fanzaga, che nessuno tocchi, per benisti in queste ore che attaccano Don Livio, non si può permettere, come Parenzo. Lunga vita a Don Fanzaga, che oggi è tornato giustamente a dire che la pandemia è provocata volutamente, è stata provocata volutamente. Il suo pensiero, io non sono d'accordo, però lo posso dire tranquillamente. Probabilmente non sapevo mai qual è l'origine della pandemia, ma fino a prova contraria, a mio parere, resta sul tavolo l'ipotesi che possa essere stata provocata volutamente. Ma quale tavolo? Ma su quale tavolo? La pandemia voluta da Satana, che vuole un uomo nuovo. Ma dai, ragazzi. Ma... Ribadisco, è vero che io ho attribuito la pandemia a Satana, non a Dio, a Satana. Se fosse vero, e spero di no, che la pandemia sia un progetto provocato da chi vuol costruire un mondo, un uomo nuovo, sarà un uomo nuovo. E prescindendo dal fatto che l'uomo possa nascere dal maschio e dalla femmina, ancora, che venga progettato secondo le esigenze delle persone con che lo ordinano, come se fosse una macchina, e secondo le esigenze, diciamo così, del mondo nuovo, che sarà un mondo dominato dalla tecnica, dalla cibernetica, dove evidentemente le nostre libertà saranno messe alla prova. Sì, voglio dire, ecco, vedi, adesso mi incazzo però con Don Livio. Voglio dire che la tecnica e quella che Don Livio chiama la cibernetica permettono al signor Don Livio Fanzaga di trasmettere liberamente, chiaro, all over the world. Ma cioè, sì, la tecnica, quella che lui chiama la tecnica in modo dispregiativo, la tecnica, no? Permette a questo signore, grazie diciamo, all'evoluzione delle trasmissioni radio, eccetera, eccetera, di far sentire la sua voce in tutto il mondo. Dunque dovrebbe essere grato al mondo nuovo. Invece lui pensa che ci sia Satana dietro il mondo nuovo. Mamma mia. Satana che non vuole la famiglia tradizionale. Mamma queste mia, sono puttanate. Dire, ma perché non le può mia. Dire? Perché ma deve le dice, attaccato. Le dice. No, ma il Vaticano che faccia qualcosa e la CEI faccia qualcosa, perché non ma penso. Ecco, che... vedi, sta invocando l'intervento di qualcuno. No, ma non di Dio, l'intervento della CEI, perché voglio dire, se la CEI pensa e tollera che il suo speaker, la Conferenza Episcopale Italiana, la quella fondamentale, Radio Maria, se Radio Maria, la voce di Radio Maria, dice che questa roba è frutto di Satana, siamo al delirio e qualcuno intervenga. Antonello dalla provincia di Milano, ragazzi, la serata è molto lunga e ci saranno molte, tantissime sorprese. Sarà una puntata pazzesca. Aspetta, c'è un audio di un'altra cameriera. Ho preso cameriere che Antonello scrivono. Provincia di Milano. Buonasera. Mi continuano a scrivere persone, non posso dire chi. Io ti vorrei sempre sporco, sempre con la puzza addosso. Continuamente. Mi continuano a scrivere persone. Nello stesso albergo con Cruciani. No, donne, chi mi continuano a scrivere. Di nomi, fuori nomi. Ma io i nomi. Aspetta, Antonello, che adesso li pubblichiamo. Sono qui. Sono qui, Antonello, non Antonio. Antonello, non è uguale, il mio nome è diverso. E Antonello, va bene, d'accordo, Antonello, ma non è una polemica. Questo intervento che hai fatto adesso, il generale Cruciani che dichiara guerra al povero vecchietto padre Livio, è proprio la sintesi del mio intervento. Al contrario. Lo stai mettendo alla berlina, come se fosse un ridicolo. Io comunque quello che credo... Ma ho detto lunga vita, chi lo crede, lunga vita e io continuo ad ascoltarvi, se vi ascolto sì, certo, se non vi ascolto, ma chiesto a Barisoni di prenderlo. Io continuo ad ascoltarvi, però volevo ma io lo vorrei qui, a Radio 24, a fare un programma su Radio 24. Distruggi la radio. Per metterlo alla berlina, sei uno sfruttatore di casi umani, ma sei diventato tu il tuo compare, diventando a turno, non lo Zerbino stropicciato che adesso parla, a lei, grazie Davide. Semplicemente dire che vi state trasformando voi stessi nei casi umani che sfruttate a turno, vi rimbalzate questa veste di caso umano. La cosa che mi dispiace però è una sola, Beppe, una sola, dileggiavi uno dei miei miti, l'avvocato Di Pre, quando sfruttava il caso perché lo accusavi di essere uno sfruttatore di casi umani. Io l'ho solo attaccato quando sfruttava la povera Sara Tommasi. Uno c'è il mito di Di Pre. Quando sfruttava la povera Sara Tommasi, chiaramente certo, sì, sotto effetto di sostanze stupefacenti. Cosa che qui non avviene, certo. Come è evidente. Valerio da Londra, vai. Valerio, sì, dimmi. Pronto, ciao Giuseppe. Dimmi. Mi senti? Ti sento, Valerio, però se non ti metti bene col telefono non sentiamo un cazzo, dai. Mi senti? No, Rosario dalla provincia di Ragusa, mandate a fare in culo questo, dai. Rosario. Ciao Crugiani, mi senti Crugiani? Volevo dare una critica a Parenzo per fare il vaccino obbligatorio. Questo è un altro fenomeno. Un come fenomeno? Il vaccino obbligatorio io lo critico perché... troppo esagerato, il vaccino non deve essere obbligatorio. Sì. Lei è talmente lucido che su di lei il vaccino non ha effetto. Allora io dico questo: gente così non va vaccinata. A cosa serve? Cosa serve un signore così? Ma ditemi voi, a cosa serve? A cosa serve? Calmiamoci tutti e due, caro signore, chiedo scusa se ho usato. Mi tolga solo una curiosità, caro Rosario, calmiamoci tutti, le chiedo scusa se ho detto che non ha senso vaccinarla. Lei in quali televisioni si informa? Ad esempio, lei guarda è importante. Lei, vero che la 7 non la guarda mai? Non la guarda mai, vero lei Rosario? Ma guarda, però che mi riprendo a parole perché io parlo solo come padre, perché lei l'italiano l'ha imparato da Del Debbio, l'italiano così formito lei l'ha imparato a Rete 4, ne sono sicuro. Grazie al cazzo. Scusami Rosario, io posso dire una cosa? Pazzesco. Rosario, secondo me è uno che pazzesco. Non si può permettere di fare questo paragone Hitler uguale Parenzo, ma perché, è una cosa un po' forte. Ho visto che lui proprio in tasca questo vaccino obbligatorio sulla testa a leccare la sinistra che va a favore lui. Ma lei è completamente smesso, ubriaco. Ha bevuto cosa? No, bevuto è lucido. Ora è lucido. Ho sentito il programma un mese fa della la testa, lui istigava il vaccino obbligatorio. Ha visto il programma che bisognava rendere obbligatori i vaccini. L'ha visto. La Zanzara. Resisti Parenzone, tutti questi razzisti del cazzo. Resisti, sei l'unico. Io lo capisco che la maggior parte di voi è stupida e ha un quoziente intellettivo veramente basso, ma non ci vuole molto a capire che una madre che monta il figlio su un barcone è perché sta scappando dalla fame e dalla morte, e che preferisce far rischiare la morte al figlio su un balcone che farlo morire di fame in mezzo a una guerra del cazzo? Razzisti di merda. C'è uno, se dice che la madre, che una madre è responsabile della morte di un figlio trascinandolo una su follia. Un balcone pieno di gente a novembre, in mezzo al mar Mediterraneo, folle. Se uno dice che la madre ha un minimo di responsabilità è automaticamente un razzista. Ma siete voi che siete malati di mente, siete voi che siete razzista, malati, dice una siete stronzata. Voi. Date del razzista e della stronza a qualsiasi persona la pensi diversamente da voi, vergognatevi. Ma che diversamente? Ma con che coraggio uno argomenta una stupidaggine simile? Si nega il diritto alla disperazione perché ma che nega il diritto alla disperazione? Gli italiani che andavano all'estero erano disperati. I negri non possono essere disperati. E chi ha detto che non possono essere disperati? Chi ha detto che non possono essere disperati? Ma chi dice il contrario? Chi dice il contrario? Tratti una madre orfana della figlia che non c'è neanche un termine per designare ognuno... un genitore a chi gli muore un figlio, non c'è neanche il termine, tanto è straziante, e si nega il diritto al dolore di queste persone. È una cosa disumana. Ma chi, ma chi nega il diritto al dolore? Si è spiega semplicemente che la madre è da stronzi, come ha detto una signora ieri. La madre si è assunta la responsabilità di portare quella bambina, quel bimbo di sei mesi. Si è presa la responsabilità. Sono gli stessi che dicevano: ma perché gli ebrei non sono scappati dalla Germania? Perché erano degli stronzi, anche gli ebrei che sono morti nei campi di concentramento. Ma voi siete malati a fare questo paragone vergognoso tra la stessa cosa. La fuga degli ebrei, la fuga degli ebrei e la fuga degli immigrati. Vergogna di Parenzo. Le comunità ebraiche dovrebbero ribellarsi contro di te per questi paragoni che fai. C'è molto di più. Non capire che una persona, quando è in uno stato di difficoltà, qualunque esso sia, farebbe qualunque cosa pur di salvare il proprio figlio. E addirittura arriva come ultima disperazione. In mezzo al mare a novembre a morire. Pensa a che punto arriva la disperazione. Pensa a che punto arriva la disperazione delle persone a dire: rischio addirittura di perderlo. Esatto, non hanno diritto perché punto. Africani, non hanno e diritto perché qualche africani. Qualche stronza per sua stessa ammissione, non lo dico certo. Io, vorrei che la regia lo facesse per piacere risentire con un cuore indurito. Ma il cuore a titolo di prova, la regia dovrebbe farlo sentire ad imperitura la memoria. La sedicente stronza dice di sé. Vabbè. Essere stronza. Francesco da Verona. Sì, buonasera. Sono d'accordo con te, Cruciani, riguardo a padre Livio. Onore e lunga vita. È una voce non è che ho detto che ha ragione padre Livio. Ho detto che padre Livio dice un sacco di cazzate, dopodiché deve avere il diritto di dire senza che ci siano i moralisti a dire: ma quella roba lì è pericolosa, quella roba lì va chiusa, lui fa dei riferimenti biblici comunque. No, nessun riferimento biblico. Allora diciamo che la trasmissione non è seria. Prima di andare in onda bisognerebbe dire: questa trasmissione è una trasmissione comica, allora non può dire qualunque roba. No, allora su Apocalisse 13, un libro scritto più di 2000 anni fa, leggo due minuti, un attimo. Sì, Apocalisse 13. Ma cosa c'entra col Covid? Cosa c'entra col Covid l'Apocalisse? È una cosa seria l'Apocalisse, una roba biblica. Ci vorrebbe Biglino qua. 10 secondi. Inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava questo marchio. Il riferimento che fa padre Livio è questo qui. Il fatto che tu credi per davvero che ci sia qualcuno che ci vuole mettere un microchip sotto pelle perché vuole Ma visto che avete parlato anche settimana scorsa di questa cosa, ma potrebbe essere la stella di Davide dei perseguitati ebrei che non potevano vendere o comprare se non avevano la stella di Davide sul bavero della giacca. Cosa cazzo stai dicendo? Potrebbe essere il timbro fronte. Della discoteca quando vai fuori dalla discoteca. Potrebbe essere anche che tu non hai il vaccino anti-Covid o questo pass Covid di cui si parla, non può andare a lavorare, non può comprare, non può fare nulla. Scusami Francesco, intanto per capire, tu sei un negazionista, siccome oggi in Svizzera un economista dice che i negazionisti non dovrebbero avere una cura, cioè non dovrebbero ricevere alcune cure c'è nessuna cura di intubazione, ossigenazione, eccetera. Cioè, se un negazionista si ammala, non dovrebbe essere curato, fino in fondo. E Parenzo magari dà ragione a questo tizio, no, svizzera. In Svizzera, no, oggi un coglione potrebbe essere, è una bella provocazione. È una bella provocazione. Che i negazionisti non vanno curati. Non andrebbero curati. A rigor di logica, è una bella provocazione. È una bella provocazione. Io ho riportato dei fatti, ho sostenuto ciò che dice. Non hai riportato un cazzo, Marco dalla provincia di Brescia, vai. Marco, legge l'Apocalisse di... questo. Sì, ciao, buonasera a tutti. Ciao, buonasera a tutti, volevo aspettare una lancia. Limite, leggo nudi. Il tromba. No, mi rileggo il libro mio, Marco, provincia di Brescia, vai. Sì, ciao, vai. Ciao, volevo aspettare una lancia a favore di Parenzo in merito agli omosessuali e ai transessuali, sì, soprattutto. Allora? Transessuali. Ma allora, di fatto la definizione transessuale è racchiusa nella ginandromorfofilia, che è una parafilia. La parafilia indica pulsioni erotiche connotate da fantasie o impulsi intensi e ricorrenti. Vabbè, allora, ma che tuttavia, vuol dire? Allora, quando spiegano. Il comportamento parafilico diventa invece una forma di dipendenza, il soggetto accusa un certo disagio interpersonale, allora questo disagio può arrecare danni a se stesso e agli altri. Mm. E dunque? Ecco. Non ho capito, che c'entra? Dunque, quando Parenzo sostiene che chi va a trans ha un certo, una forma, io traduco quello che dice lui, una forma di disturbo. No, ha detto proprio è malato, è disturbato. Malato tecnicamente. Ma malato, abbiamo fatto risentire l'audio. Disturbato è uno un po' così. Vabbè, ma è una forma di disturbo in psichiatria, in psicologia. Tu definisci malato, però è una forma di disturbo. Anche chi si ammala di figa per quello, cioè, poi diventa uno scopatore compulsivo, non riesce a fermarsi. È vero. E allora, qualsiasi roba. Tutto è droga, tutto può diventare patologico, certo, può diventare patologico, ha ragione. Quello che ha detto Parenzo è una grande cazzata. Parenzo ha detto che è sempre patologico, è lì che è l'errore. Vabbè, ciao Marco, ciao Marco, ciao. Davide dalla Spezia. Presente. Dimmi Davide, dimmi. Cosa volevo dire? Aspetta un attimo, mi dai la birra per favore? Niente, sta sentendo a cosa. Mi dai la birra, scusa. Birra, a sta ora qua. Vabbè, perché a quest'ora è 8:15, uno si può bere la birra. No, bello, mi sono preso una birra, mi sono preso una birretta. Ma dove? Veloce, dove l'hai presa sta birra? Dove? Da un kebabaro, da un bengalese. Bravo. Ma dove? Venderla. Dove? Non alla si può vendere. Alla Spezia. Anche alla Spezia fate il cazzo che volete, Liguria, take away, non ho capito, Spezia è il paese dei mille sindaci. Spezia è il paese dei mille sindaci, ognuno fa il cazzo che è un kebabaro che può fare solo take away, dunque tu prendi take away e porti a casa. Sì, porta a casa, bevo qua davanti. Come bevo qua? Comunque, non si può. Ma cosa dici, Gottardo? Lei sta violando la legge. Basta, stai zitto, Gottardo. Ma cosa stai dicendo? Dov'è quella cacolina di Parenzo? Dovrebbero arrivare i carabinieri. Ma non li rompere i coglioni. Ma non mi rompere i coglioni, Gottardo, i carabinieri. I carabinieri per cosa? Per una birra. Ho lavorato 12 ore, lavoro in ospedale, sono in mezzo al Covid. Quindi potenzialmente contagioso, lei sta in giro per la strada. No, contagioso no, perché io ho tutti i miei dispositivi di protezione, contagioso proprio zero. Non vuol dire un cazzo, sono morti un sacco di medici e infermieri. Vabbè, allora, quello c'è ragione, però fate allora vada a casa. Davide, tu non mi dare del lei, che ho 35 anni. Non ho capito qual è il punto. Dunque, tu hai preso da kebab bar una, immagino, qualcosa da mangiare, una birra, e stai consumando la birra sul posto, cosa che non si può fare normalmente. Ma sti cazzi, ma noi non siamo la questura. Ma non siamo la questura. Ma questo lavora in ospedale. Male. Quello male. Pensa che sia. Voi siete due questurini, tutti e due. Siete due questurini. Tu e Davide siete due questurini del cazzo. La legge, se è stata fatta la legge, io non sono d'accordo con quella legge, ma se è stata fatta la legge, va rispettata. Ci tengo tardo 12 ore in ospedale con la mascherina. Ma vai a casa a riposarti. Staci te 12 ore a casa con la mascherina in casa. Ma in ospedale. Ti rendi conto che questo lavora in ospedale, dovrebbe salvare le vite, e ascolta la zanzara e beve birra. Io mi preoccupo. Faccio anche di peggio. Ma qual è il problema? Cosa ha fatto di strano questo uomo? Deve andare a casa. Ma saranno cazzi suoi dove va? Che vuoi fare? Vuoi costringerlo a fare quello che dici tu? Potrebbe essere positivo e quindi contagiare delle persone lavorando in ospedale. Sono a rischio. Ho fatto i serologici 3 giorni fa. Ma come fai a dirlo? Potresti esserti contagiato oggi. Non vuol dire niente. Vabbè, ciao Marco. Cosa volevi dire Davide? No Marco, Volevo dire che chi va a transessuali è un malato di mente, perché io ci sono andato una volta per transessuali, e il pensiero di farmi fare un bocchino, un pompino da uno che ha la prostata anziché l'ovaie, mi viene il vomito. Ma ho capito, ma tu saranno cazzi tuoi, perché devi definire malati invece quelli che si vogliono far fare i pompini da transessuali? Non ho capito. Perché sono malati. Sono malati che cosa? Non ho capito. Se uno si vuole far fare un pompino da un transessuale, si fa fare un pompino da un transessuale, ma non è un malato. Allora te lo fai fare da un uomo, la solita cosa. Ma non sarebbe malato nemmeno uno che se lo fa fare da un uomo. Cioè, non sarebbe malato nemmeno lui. C'è la guardia di finanza davanti, aspetta. Ma come no? Dai, ma che cazzo stai dicendo? Scusa, non ho capito, a parte che come spiega qualcuno. Te lo faresti fare un pompino te da uno che c'ha la prostata, che c'ha anzi che lo vai? Guarda, posso dirti una cosa, caro infermiere? Davide, non so cosa fai in ospedale. Davide. Fai l'infermiere? Spero di no. Sì. Fai l'infermiere. Porca vacca. Allora, ma quale porca vacca? È una persona libera che può dire quello che vuole. Allora, Davide, ti posso dire una cosa? Sì, però meglio non averlo. Io seguo le indicazioni. Di più, sono un grandissimo fan di Fabrizio da Milano, altro che... E questo c'era di... Io, per favore, qualora dovessi ricoverarmi, Dio non voglia, io voglio avere un altro reparto. Un altro. No, qualora fossi lì, appunto, alla Spezia. Parenzo, io ti amo. No, grazie. Guarda, se fossi gay ti inculerei subito, guarda. Lei è un personaggio pericoloso. Ma lei guarda la 7 di d'estate? Io la guardo per guardare Parenzo. Però posso dire una cosa, io su questo, caro Davide, seguo l'insegnamento di Sgarbi e di altre persone che sostengono che al buio, per esempio, al buio un pompino, che se te lo fa un uomo, se te lo fa un trans o te lo fa una donna, non è che cambia molto. È il problema quando accendi alla luce, però. Sì, d'accordo, però uno può anche sgattaiolare via, andarsene. Cioè, alla fine, il pompino fatto al buio non lo riconosci se è fatto da un uomo, se è fatto da un trans, se è fatto da una donna. Per cui non ci sono grandi differenze. Per cui che me ne frega a me se uno c'ha la prostata, se uno c'ha le ovaie, se uno c'ha un pisello lungo. Però quando fare il pompino, però non è che te lo fai fare al buio senza sapere. Ma che bella conversazione. Sì, ma allora, Sgarbi sostiene che al buio il pompino è uguale. Nella dark room. Il pompino, ma quello non lo metto in dubbio, il pompino è uguale. Però Ciao Davide. Oh no, she's not a secret now. È stato criticato per una cosa, ragazzi, che è ovvia, ma tutte le donne vorrebbero sposare un milionario, miliardario. L'ho usato miliardario perché ha attaccato ancora le vecchie lire. Pupo con noi, buonasera. Buonasera a tutti, eccomi qua. Ciao Enzo. Ciao, allora, Davide, ciao, c'è anche Gottardo, no? Sì, ci sono. Io lo stimavo, allora. fino all'affermazione di quest'oggi, la stimavo, Pupo, sa? Grande scivolone. No, attenzione. Io sono qui anche per dire, chiaramente è molto bello che si parli di me e che siamo qui per questo, perché facciamo questo mestiere. Io ho detto, ascoltate bene, perché siccome ho appena ascoltato Giuseppe Ladurso oggi, che fa parlare un po' tutti, come è giusto, come tu fai parlare un po' tutti, e stanno strumentalizzando le cose che ho detto, perché io ho detto una cosa del genere, ma era riferita, e lo dico precisamente, alle concorrenti chiuse dentro la casa del Grande Fratello. Beh, io non mi sono mai sognato di, siccome sai come tratto le donne e quante, cioè, donne tu hai detto tutte voi, tu hai detto tutte voi che siete lì lì dentro, lì dentro e allora la contessa Elisabetta, no, sì, è chiaro. Quindi conosco bene il peso delle parole e dei verbi. Ho detto sposerebbero volentieri, secondo me, un miliardario, e lo confermo. Non mi sogno di dire che tutte le donne del mondo sposerebbero volentieri un miliardario. Sarei io invece lo dico. Questo no, anche perché io, le mie donne che sono con me da decenni e che in qualche modo sfruttano e usano il mio amore e anche il mio denaro, sanno benissimo come io la penso, ma il mio pensiero... Ho capito, non è che hanno sposato un poveraccio, però, non hanno sposato un morto di fame, a parte i problemi che ha avuto, non hanno sposato un morto di fame. No, mia moglie quando mi ha sposato era un morto di fame, però io poi ho fatto i soldi dopo, poi li ho persi e poi sono tornato di nuovo a essere molto molto agiato. Quindi diciamo che... No, ma io non è che sto ritirando quello che ho detto, voglio che siano... perché la strumentalizzazione va benissimo, chi se ne frega, a me non mica mi frega niente della stima. Cioè, tu ti riferivi alle partecipanti al Grande Fratello VIP, tutte voi che siete lì dentro. Non mi riferivo, ho detto proprio questo così, ho detto tutte voi che siete là dentro, secondo me sposeresti volentieri un miliardario. Questo cioè, c'hanno il tassametro nelle mutande, che ragionamento ma, è? Ha ragione lui, semplicemente, amico mio, un'opinione, cioè, si eccitano con la carta di credito. È semplicemente l'opinione di uno che è pagato per fare l'opinionista, e questa è una mia opinione su quel genere umano femminile che sta là dentro, capisci che voglio dire? E questo, che genere umano è? Cioè, le sta paragonando quasi delle meretrici. Tu prendi allora la contessa, ce la vedi stare con un operaio dell'Italsider? Ce la vedi stare con un operaio della Fiat? O Giulia Salemi, Selvaggia Roma, Adua del Vesco? Ma stai scherzando? Sì, quelle partecipanti che stanno lì dentro non starebbero mai con un operaio della poi loro possono dire con la dialettica, possono dire quello che vogliono, ma io, cari amici miei, però, caro Davide, no, caro Giuseppe, guarda, caro voglio Costanzo, dirti solo una cosa. Forse hai ragione, caro Pupo, però secondo me considerare tutte quelle ragazze che vanno al Grande Fratello delle morte di fama e delle, come dire, assetate di bancomati di American Express. Ma è la realtà. Beh, forse Non lo dice in maniera dispregiativa, perché la realtà non c'è nulla di male. Noi vogliamo essere amati per come siamo, Davide. Dammi un motivo. Un motivo. Uno, dimmelo tu che sei una persona intelligente. No, in che senso? Dammi un motivo per andare a fare il concorrente al Grande Fratello. Uno. No, appunto, beh, c'è la fama, la notorietà, voglio sapere da te un motivo. Sicuramente c'è la voglia della notorietà, i soldi, la fama, certo. La voglia di recuperare notorietà, la voglia di rimettersi in gioco. Tu pensi che sia davvero per loro un percorso umano, didattico, per cui io voglio provare questa esperienza perché mi farà bene a livello umano? Sono lì per la popolarità da recuperare in molti casi, per il denaro, e quindi io dico semplicemente una cosa che non è, la dico in maniera dispregiativa, la dico perché ci sono passato io da questo disagio, ma voi che ne sapete? Io ho fatto il buffone in televisione, la macchietta, perché non ho più bisogno di denaro. E poi le donne, se le rispettassero, le rispetto io. Io a mia moglie do lo stipendio da casalinga, da sempre. Mia moglie, oltre che ai soldi che prende per mandare avanti la famiglia, sono tanti. Lei ogni mese prende lo stipendio e io non ho mai fatto pesare a una donna. Ma che stipendio gli dai? Non ho capito. Che stipendio gli dai a tua moglie? Che stipendio gli dai da casalinga? In euro, uno stipendio. E quanto gli dai al mese? Non ho capito, quanto gli dai al mese? Non mi sembra il caso, gli do un buono stipendio come si fa a dare uno stipendio alla moglie? Ma che vuol dire dare uno stipendio alla moglie? Ma è incredibile. Vuol dire dare alla moglie la propria libertà. Ma che vuol dire dare uno stipendio alla moglie, amico mio? Ma non si dice dare uno stipendio alla moglie. Il denaro, allora, le donne, le mie donne non vengono mai a chiedermi il denaro, hanno il loro denaro, perché io non le metto mai nella condizione psicologica. Ma appunto, ma che vuol dire dare lo stipendio alla moglie? Scusa, hai detto do lo stipendio alla moglie per il lavoro che fa da casalinga. Alla colf si dà lo stipendio, alla collaboratrice si dà lo stipendio, alla segretaria, no, alla moglie. Si dà anche alla moglie, perché la moglie vuole una sua dignità, economica. Ma non è uno stipendio, gli darai, useranno i soldi della famiglia. Allora, posso dire una cosa? Io posso, scusami Enzo, posso dire una cosa? Lo stipendio alla moglie, ancora una volta, lascia perdere lo stipendio alla moglie, ancora una volta, descrivendo, diciamo, secondo lui, naturalmente, quella che è il vero motivo per cui le persone vanno dentro questi reality, che è quello che ha detto prima Enzo, ha dimostrato, Pupo, che non ha ipocrisie di fronte a questo. Non è che ha detto che vanno lì per costruire un percorso personale di crescita intellettuale, vanno lì per recuperare del denaro e per esibizionismo, per notorietà, cioè, vanno ma come facciamo tutti noi che facciamo questo maledetto e meraviglioso mestiere? Noi cosa facciamo? Noi viviamo vendendo la nostra immagine, vendendo il nostro corpo, la nostra persona, e noi dobbiamo investire, cioè, su secondo questo. Secondo te non c'è una di quelle che andrebbe, che alla fine si sposerebbe con un morto di fame, con uno stipendiato, con un impiegato delle poste? Sì. Allora, chiaramente in condizioni disperate potrebbero fare tutto, ma nella possibilità di scegliere, scelgono il benestante, l'agiato, e non scelgono chiaramente un morto di fame, questo è chiaro, ma questo è matematico. Senti, ti posso chiedere un'ultima cosa sulla questione dibattuta negli ultimi giorni qui alla Zanzara? Allora, Parenzo ha detto una cosa ignobile, che chi va a transessuali, siccome tu qualche volta ci sei andato, come mi hai confessato più volte, anche qui a questi microfoni, ha detto che è un malato, chi va a transessuali è un malato, è un disturbato. Vorrei che contestassi questa cosa. È un'opinione di Parenzo che io rispetto e che non condivido. Grazie, perché le scelte sessuali delle persone non vanno assolutamente giudicate. Le scelte sessuali possono essere... Io, se dovessi giudicare le scelte sessuali in qualche modo che si stanno facendo anche al Grande Fratello, potrei dire, secondo me ci sono troppi gay al Grande Fratello, non lo so, capito? Ci vorrebbero più etero? Non lo so, capisci che voglio dire? No, dico, ma io non giudico. Ma ci sono troppi gay? Ci sono troppi gay al Grande Fratello, dici? Ma no, è una trasmissione televisiva che è aperta, e io non giudico, io rispetto tutti quanti, capisci? Ma però tu dici, potresti dire che ci sono troppi gay, dici? Ma no, non dico questo, assolutamente no, dico che chiaramente le scelte sessuali delle persone le fanno come vogliono, e quindi che io un giorno o una volta o due volte abbia provato l'emozione anche di avere qualche esperienza sessuale sopra le righe, non ci vedo nulla di male. Dov'è il problema? Non sono malati, questa è un'idea di Parenzo assurda, che sono malati. Non ho detto quelli che sono vanno malati, trans, figuriamoci. Di malati. Sì, sono dei disturbati quelli che vanno con i transessuali, è una follia. Ma dai, diciamo la verità. Come dire, qualche piccola perversione ce l'hanno quante sicuramente. Quante volte sei andato con i transessuali, Enzo? Non mi ricordo più. Quante volte ci sei andato con un trans? Andato una volta da ragazzo a Milano, mi è capitato di avere questa esperienza. Negli anni '80 facevamo, era un altro periodo, era un altro tempo. Senti, ma è vero, come ho detto prima io, che un pompino al buio vale tutto? Assolutamente è uguale, non dipende. Beh, ci sono film meravigliosi, la letteratura ci racconta di donne ottantenni che masturbavano le persone attraverso quei buchi dove andavano a sfogarsi le persone, e avevano mani meravigliose, donne di 80 anni molto meglio di magari ragazzine un po' fredde. Capito? Quindi al buio tutto è possibile, ma per carità. E non è riconoscibile. Ciao Enzo, a presto. Ciao. La Zanzara. Giuseppe ha tratto dal pelo bianco della figa di una vecchia. Ma questa è una grossa novità, una grande novità. Ma caspita, associata ad esempio a una intensa seduta di pissing e rimming col buco del culo della vecchia, per dire. Beh, amico mio! Senti, sono disponibile, ok? Però lo dobbiamo fare insieme, Giuseppe. Insieme. un paio di pezzi di figa anticati te li porto io, roba sui 65-75, ma donne di una statura veramente elevatissima, Giuse. Allora ragazzi, andiamo con Gigi da Roma, anzi no, Marco da Roma, Fabio da Lucca, vai Fabio. Pronto? Fabio, dimmi, vai. Sì, volevo dirti che riguardo la cosa hai detto della migrante, la giornalista non ha dato la responsabilità a lei. Da come l'hai fatto passare te? Vabbè, indirettamente, sì, dai, su, forza, dai. Non giriamo intorno alle parole. Questo dai. È scritto, aspetta, no, hai detto una falsità dicendo che ha dato una responsabilità. Lei l'ha fatta passare per una stupida. D'accordo. Non ho fatto passare nessuno per stupido perché ho detto che sono d'accordo. Ho detto che sono d'accordo, innanzitutto. A parte questo, volevo dire che riguardo alle statistiche delle trans che dicono che gli uomini vanno con loro per essere passivi, io direi grazie al cazzo, nel senso, se vanno, cioè, possono essere attivi, basta che stanno con la propria donna. È chiaro che vanno genio, lì solo per quello. A questo genio, oltre alla questione dei trans che vedo lo attrae particolarmente, signora Barbuto ha scritto: un neonato non può autodeterminarsi, virgola. Ecco, giusto, perché giusto, qualsiasi giusto. Genitore è responsabile di ciò certamente, che gli accade. Certo, certo. Capito? Allora, certamente, la signora Barbuto, quindi è un omicidio colposo del bambino. La signora Barbuto ha detto una stronzata mega galattica. È vero, questo è vero. Ha ragione Parenzo, secondo me, però neanche per Parenzo. Cambia idea completamente. Sì, infatti. Parenzo offende chi va a trans, come i leghisti offendono le persone di colore dicendo è la mia libertà, però la libertà finisce nell'offendere gli altri, e in questo caso ha fatto un errore. Vabbè, adesso non diciamo cazzate. Ha la sua opinione, pensa che quelli che vanno a trans sono disturbati, malati, degli svalvolati. Di fatto è un'offesa nei confronti di chi va a trans, ma faccio notare a Parenzo, ma non ti preoccupare, te l'ho già detto, ci siamo noi che ti aiutiamo. Non ti preoccupare, quando entrerà in vigore la legge Zan, quello che tu hai detto nei confronti dei frequentatori dei transessuali potrebbe essere oggetto di una querela, perché non ho offeso nessun trans, anzi ho offeso Davide da Pescara, ma no, indirettamente sì, perché no, se in uno alcun è schifoso modo, se va in con alcun un modo. Trans significa che in qualche modo toccare un trans quando è qualcosa io di dico schifoso. Chi va a prostitute è un miserabile, insulto le prostitute o no? Con chi devono andare? Solo con i trans, secondo te? Vorrebbe dire che tutti i trans sono prostitute, cosa che io non ho mai sostenuto, né mai pensato. Davide, io ho detto che chi va a prostitute è un miserabile, vuol dire insultare le prostitute? Non credo. Dai Davide, vai. Parenzo, dimmi. Allora, io ieri stamattina sentivo il podcast, il durante podcast, la presunta intervista lui, con podcast, lo scherzo che ti stanno facendo il podcast. Allora, c'era quel presunto transessuale che parlava e tu a un certo punto dicevi: figurati se vado a cena con un trans. Il problema qual è? Io per esempio a cena con trans, io ci sono anche andato in passato, e come Giuseppe sa, perché sono stato più volte a cena con Maurizio Paradiso pubblicamente, quindi figuriamoci. Okay, però lì io quando non eri ancora così bigotto. Io sono stato uno dei primi a portare i trans in televisione. Quando non eri ancora uno così dei bigotto. Primi sono poi stati non so io. Che cosa è successo, non so allora, cosa è successo. Sei diventato io frequentavo Maurizio Paradiso, che la invitavo, in trasmissione da me. Vent'anni fa. E poi sei cambiato. Quando ancora non esisteva la zanzara. Ciao Davide. Esisteva. Ciao. One, two, three, four. Ragazzi, chiamiamo il presidente della Calabria, il mitico Nino Spirlì. Mamma mia. Nino, sono Cruciani, ciao, come stai? Non ti preoccupare, Nino, voglio farti solo una domanda, solo qualche domanda e via. Nel caso in cui il governo nominasse Gino Strada, tu come la prenderesti? Ma il governo non deve nominare più niente, il governo deve smettere di pensare al commissariamento in Calabria. La Calabria non ha bisogno di commissari, abbiamo visto primo fallimento, secondo fallimento, terzo fallimento. La Calabria ha bisogno, di commissari. Da solo non vai da nessuna parte. La Calabria ha bisogno di una gestione della sanità, così come gliel'abbiamo proposta, che sia gestita dalla regione assieme al governo. 6 mesi, un anno insieme, dopodiché la restituzione della, della gestione della sanità finalmente al governo regionale. Come ho capito, attraverso chi? Ma che governo? Già, ci vuole un militare, un generale militare a gestire. Ma stai parlando di una regione della dell'Italia, non stai parlando del quarto quello mondo. Certo. Non stiamo parlando del quarto mondo. Basta con queste offese alla Calabria. Mai detto quarto mondo io. Mai detto quarto mondo io, anzi. Abbiamo bisogno di ma ci vuole uno che sia in grado di gestire. I politici fino ad oggi non hanno saputo gestire. Ma di che cosa stai parlando? Non hanno gestito i politici, sono 11 anni. Ma scusami, mi spieghi perché fino ad oggi sono 11 anni che gestisce il governo. No, no, no, no, no, no, scusami, scusami, scusami. Perché non ti assumi, Nino, scusami, perché non ti assumi tu? Perché non ti assumi tu la responsabilità? Perché non ti assumi direttamente la responsabilità? Non mi assumo io personalmente la responsabilità. La responsabilità va data alla regione Calabria, perché non siamo uno stato del quarto mondo. E ma se nominano Gino Strada, se nominano Gino Strada, qui c'è gente onesta. Se nominano Gino Strada, che succede? Se nominano Gino Strada, capito? Ci siamo Nino, se nominano Gino Strada, che succede? Basta! Ho capito. Se nominano Gino Strada, qual è la tua reazione? Se nominano Gino Strada? Qui non c'è da fare nomine. Qui c'è da gestire finalmente la sanità fatta per bene. Basta con questi ispettori. Ho capito, ma se governativi, ne abbiamo le scatole piene. Ma scusami, se arriva lo stesso che hanno affossato la sanità in Calabria. Ho capito, Urciani, Nino, se arriva la nomina di Strada. Se ti piace, non arriva la nomina di Strada, perché dovranno passare sul mio corpo per fare arrivare le nomine. Basta. Ma cosa scusami basta? Un attimo, che ne pensi? Che ne pensi? I commissari. Basta. Oh. Che ne pensi del fatto che il rettore allora abbia rinunciato perché la moglie non vuole venire a Catanzaro? Fatti i suoi, Catanzaro è una gran bella città dove si sta bene, grazie a Dio, e dove ci vivono persone eleganti, civili. Ma ti pare normale, ti pare normale questa cosa qua? Problemi ti pare normale loro. Questa cosa qua? Sono problemi loro. Cruciale. Ma non ti volevo far arrabbiare, amico mio Spirli. Dopodiché c'è un dato di fatto. Sono 20 anni che la sanità nella regione Calabria non funziona. Non funziona. Per colpa della politica. Sbaglia. Ma che c'entra la politica quando la sanità calabrese è commissariata da 11 anni? Di che cosa stai parlando? E dove erano gli assessori alla sanità? E dove erano gli assessori regionali alla sanità? Raccogliere le ortiche, dove erano? Ma dove erano gli assessori alla sanità? A prendere l'anduia, dove erano? No, ma scusami, su questo ha ragione Spirli. Su questa ragione Spirli è commissariato. Scusami, c'è il commissario. Fatevi un po' di lezione. Ma se c'è il commissario, scusami, però. Forse però non hai le idee chiare. Il commissariamento esclude la politica. Hai capito, Parenzo? Il fatto che ci sia un commissario, non vuol dire che la politica non può vigilare e segnalare quello che non va. Dov'era? Sul commissario vigila il Ministero della Salute. Certo, il Ministero, ma la politica dov'era? Ma dov'era? Ripeto, la politica? Scusami Nino, mettiamo che oggi pomeriggio, perché Strada ancora non si capisce che vuole fare, perché dice che ancora non ha ricevuto una proposta formale, mettiamo che oggi pomeriggio il Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio nomini Gino Strada commissario alla sanità, alla sanità in Calabria. Ne prendiamo atto, come abbiamo fatto finora. Collabori con Gino Strada o no? Dopo il Tris faremo poker, poi che cos'altro c'è? Scala Reale? Comunque ha detto bisogna passare sul cadavere. Comunque Gino Strada, Strada ha costruito ospedali in Afghanistan, li saprà fare pure anche in Calabria. Questo, la Calabria non è l'Afghanistan, avendoli costruiti in Afghanistan, avendo fatto ospedali in Afghanistan, sarà in grado di farli anche lì. Ma non c'è dubbio, ma lo so bene, ci sono stato 1000 volte prima che governassi tu. Il diritto di governarsi come si governano tutte le altre regioni. Ma quello d'Italia. Ci mancherebbe, basta punto. Che lo faccia bene. Quindi qua non abbiamo bisogno di missionari di nessun tipo, capito? Punto. Va bene, ciao Nino. Ciao Baci. Nino. La Zanzara. Quando ho smesso di ascoltare La Zanzara, ho ritrovato subito la fidanzata. Il lavoro è ripartito a gonfie vele e gli amici fanno altro che chiamarmi. Cruciani, la zanzara porta sfiga! La zanzara. Ma sarà un diritto dire che chi va coi trans, cazzo, ha problemi? Ma sarà un diritto? Tu sei sempre per la libertà di parola, porca puttana! E sarà un diritto anche questo, pensarla in questo modo? Io non voglio farmi inculare e la penso come David. Ma sarà un diritto dirlo, porca troia, con tutto il rispetto per i signori trans? Si potrà dire o no? Sono arancioni, aspirina effervescente, Uniplus supposte, Viagra è celeste, e parlo tutto così anche calabrese. Assunto. Questo era Bizzarri che si proponeva a fare commissario, commissario anche lui. Commissario in Calabria potrebbe far acquistare alla regione tutti i suoi libri, intanto, secondo me, come inizio, come benvenuto. Comunque posso dire questa cosa. Senti qua, scusami un secondo, senti cosa è successo, senti che bello questo, senti. Sì, salve, io sono una cameriera che lavora nell'hotel di dove alloggiano solitamente Cruciani e Gottardo. Ma non sa neanche il nome. Senti. Sono degli animali. Aspetta. Perché quando sono entrata in camera ho visto che dal frigo bar avevano rubato tutto quanto e poi l'avevano rivenduto, ho scoperto giorni dopo, al mercato di Abano Terme. Cioè, sono due schifosi degli animali che veramente, certo, senti, nera. Hanno dato pure la colpa a me e quel proprietario dell'hotel, veramente, guarda, insolenti, pazzesco. Due animali, vabbè, due schifosi. Vabbè. Allora ragazzi, è con noi, fermila, è con noi Daniela Martani. Buonasera, grande ciao, ritorno. Ciao Giuseppe, ciao a tutti. Ciao, squinternata. Scusami, devo iniziare la puntata ringraziando il mio avvocato penalista Andrea Palmiero, che mi ha fatto prosciogliere dalla denuncia di diffamazione che mi aveva fatto Fedez dopo tre ricorsi del signor Fedez, Federico Lucia, come si chiama lui, niente, il giudice gli ha dato definitivamente, quindi si può mettere una pietra, tombare su questa sono contento per te. Che cosa quindi gli avevi detto? Diffamazione. Cosa gli avevi detto, signor Fedez? Idiota, pallone gonfiato, non è diffamazione. Quindi se adesso si andasse a consolare con l'ambrogino d'oro che gli hanno regalato, visto che ha fatto la medaglia, l'ambrogino d'oro, ecco, si consolasse con l'ambrogino e rompesse meno i coglioni a me. Quindi ecco, direi grazie a Andrea Palmiero. Ragazzi, però la libertà di espressione, solidarietà a Fedez. Che vuol dire? Sì, questo significa però che se ti danno dell'idiota, tu puoi controbattere dicendo no, idiota sei tu, ma cosa c'entrano le carte bollate? Adesso io non conosco la vicenda, le carte bollate non c'entrano un cazzo. Aspetta, no, vorrei ricordare che idiota, quindi fu se detto, io dico che la Martani è idiota, si può dire allora. Ma tu mi dici di peggio, non ti ho mai denunciato. No, esatto. No, ma io voglio dire, quindi si può dire che la Martani è idiota. Okay. Ma guarda, se mi dici idiota non me ne può fregare di meno. Comunque vorrei ricordare la Martani è idiota, è confermato. La questione era legata alla famosa festa di compleanno dove si sono tirate di tutto, il cibo, la frutta, le verdure, i panettoni, ma ricordate, se ne frega, adesso, nel supermercato, se lo ricordo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi no, perché allora, poi voglio lui chiedere alla Martani una cosa. Voglio dire, caro Parenzo, la Martani, che è considerata una negazionista, in Svizzera, secondo un coglione, non dovrebbe essere curata se si beccasse il Covid. Dovrebbe prendere neanche le medicine delle multinazionali. Ad esempio, la tachipirina non dovrebbe prenderla perché è fatta dalle multinazionali. Quindi non deve prendere i farmaci perché costa sul servizio sanitario, capito? Se ti ammali, abbracciati un cane. Abbracciati un cane. Ti do una notizia, caro Parenzo. Allora, io nelle ultime due settimane sono stata a tre feste di compleanno dove eravamo 15 persone nelle case. Minimo 15 persone dentro casa. Bravi, responsabili. Assolutamente nulla. Cioè, siamo divertiti da morire. Quando è che sei stata lì? La prima 15 giorni fa, la seconda una settimana fa e la terza. Quindi non esiste il Covid. Quindi questa idiota sostiene che non esiste il Covid. Questa idiota, visto che si può dire, sì. Ho detto che non esiste il Covid. Questa idiota sostiene, secondo te, tu sostieni che sostanzialmente non esiste. Ho detto che semplicemente che la narrazione che viene fatta in Italia sul Covid è completamente sballata. comunque vorrei dire che anche oggi in Italia abbiamo oltre 700 morti. È scappato il Covid quando hai sentito le canzoni. Morte 5 persone in Svezia, dove tutto è aperto, morte 5 persone, in Italia 740 e rotti, e abbiamo le mascherine obbligatorie, abbiamo i coprifuoco, abbiamo le zone rosse, abbiamo di tutto. Ma non ti è bastato ancora, non ti è bastato no, non ti è bastato a te, irrispettosa, che non sei altro, irrispettosa, vergognosa, cioè, tu stai dicendo che lei dovrebbe rendersi conto che oggi ci sono 700 morti. Irrispettosa gattara vergognosa, irrispettosa gattara vergognosa, irrispettosa, irrispettosa cialtrona, sì, irrispettosa cialtrona. Però scusa, io una cosa, scusate, fermi tutti un attimo, io cialtrona. Allora, scusami David, Daniela Martani ha detto di essere andata negli ultimi giorni, chiamala la cialtrona, come si fa nei contratti, d'ora in poi definita la cialtrona, sai, nei contratti che ci d'ora in poi definito il locatario, ecco, d'ora in poi definita la cialtrona, nei contratti si fa così, che tu stai a casa con i tuoi figli e tua moglie, non puoi vedere nessuno, invece mi va ma io vedo mia moglie, sono contentissimo, perché mi frega. Dai, ma di che? Allora, con gli ultimi giorni in vigore dunque i DPCM di Conte anche a Roma, la Martani ha fatto sostanzialmente assembramenti con più di 15 persone in tre feste distinte, caro David. Lo ha affermato adesso, immagino senza mascherine, senza un cazzo, no? Assolutamente niente. Allora, David, che cosa succede? Secondo te è un pericolo pubblico? Andrebbe è un pericolo pubblico, va fermato, è un pericolo, è un untore, che cos'è? È un potenziale untore, è un potenziale pericolo per se stesso, ma anche per gli altri. Certo. Andrebbe segnalata perché è irrispettosa, uno verso i morti che ci sono stati, due verso i medici che ogni giorno lavorano in ospedale quando sta mortacciona, sta in giro a fare la morte di sta mortacciona, sta in giro a fare la gattara. Dove c'erano due malati, uno col casco in testa, con l'ossigeno, i medici bardati, occhiali, di guanti, di tutto, tute, e l'altro accanto non c'era niente in faccia, è incredibile questa buffona, roba, sta buffona, mentre sta buffona stava a divertirsi, dire, i medici stavano salvando vite, mentre sta buffona stava lì. Come mai, mi devi rispondere, però seriamente una domanda, come mai in Svezia, che non c'è lockdown, non c'è la mascherina, non c'è niente di niente, ieri c'erano 5 morti in Italia, 741, gli ultimi giorni sono aumentati, stanno cambiando anche loro, stanno completamente cambiando. Apri il grafico, coronavirus Svezia, grafico, 5 morti, allora spiegami. Stanno cambiando. Scusa, non sta tu hai detto 5.000 sono a 5.757 casi. 5.757 casi. La Svezia costretta a nuove restrizioni. Leggi i giornali. Leggi la Svezia costretta. Però tu hai detto una cosa. Ieri, oggi, non mi ricordo. Preferisco non vaccinarmi mai e prendere il Covid invece di far arricchire questi stronzi, ti riferisci evidentemente ai produttori di vaccini, rafforzate il sistema immunitario invece di cedere a questi bastardi. 6.000 decessi in Svezia, 6.000 decessi. Chi sarebbero i bastardi? Chi sarebbero? I bastardi sono, vabbè, chiaramente i produttori dei vaccini. Ieri c'è stato un servizio molto importante. Ma come fai a dire bastardi produttori dei vaccini? Fai Parenzo, reagisci, dice bastardi produttori dei vaccini. Ma è una poveretta, per fortuna i suoi genitori l'hanno vaccinata, i suoi genitori che sono stati più intelligenti di lei l'hanno vaccinata sta mortacciona, i suoi genitori l'hanno vaccinata perché i suoi genitori sono più intelligenti di lei. Caro Cruciani, sì, c'è un intrallazzo tra politica e produttori, non ti preoccupare, sono tutti dosi per gli altri. Se tu non ti vaccini e non prendi, se tu non prendi le medicine, tutto per gli altri, meglio, tutto meglio. Perché dico un'ultima cosa, Daniela, un'ultima cosa. Guardate il report di ieri e allora capirete un'ultima cosa globale sui vaccini. Ecco, questo. Allora, però posso dirti una cosa, Daniela, un'ultima cosa. Una non biologa, parla di inganno globale. Questa settimana qualcuno ha detto, Parenzo, che i negazionisti, ragazzi, spegnete i telefonini, i negazionisti, Parenzo, togli l'audio, i negazionisti sono dei dementi, una forma di demenza, certo, il negazionismo. Certo. Come certo? Sì, dunque, certo. Secondo te Daniela Martani è una demente? L'ha detto anche l'ha detto la professoressa Capo, certamente, è una forma di demenza. No, quindi non vanno ha detto anche... la Capo, l'ha detto un'altra, ma comunque uguale. Vanno, cioè, ha detto che è una forma di demenza. Vanno... La Cavallotti, che manco sai chi è biologa, lei è una biologa, autrice televisiva. ma vanno in qualche modo vanno tutelati, vanno curati in qualche modo. Dunque la Martani va curata, va rieducata. No, rieducata è un brutto termine, va curata. Ma dopodiché, siccome è una persona che serve a poco, può anche non rieducarsi, tanto chi se ne frega, perché serve a poco. Oggettivamente serve a poco. Che fu costretto ad abbiurare, non sei Galileo Galilei, tu sei una gattara, sei una gattara, non sei Galileo Galilei, non sei Galileo Galilei, sei una che dorme coi cani, che li porta a spasso, che canta canzoni di merda e che non fa un cazzo dalla mattina alla sera. Questo sei. Non sei Galileo. Fermi tutti, fermi. La Zanzara. Ecco perché David voleva che venisse chiamato a tutti i costi e sempre il turco. David, questa è novità, questa è grossa novità. Quindi se io dovessi chiudere questo centro, andrei a fare l'inviata del popolo, a mie spese, a mie spese. Allora, ci abbiamo alla conclusione di questa meravigliosa puntata, caro David, ma non è finita, ma non che è finita bella qui. Notizia. È brutto avere ragione, io tornerei un attimo sulla vicenda di Catanzaro, poi abbiamo una super ospite finale che ti farà sognare cose che probabilmente tu non farai mai nella tua vita. Voglio far risentire, ripescatemelo per favore dalla regia, quello che dissi su Catanzaro, perché oggi la moglie di un rettore ha provocato l'ennesima crisi di governo, se è vero, perché poi ci sono tante cose. La moglie di un rettore nominato dal governo commissario in Calabria alla sanità, tale Gaudio, ha detto che non vuole trasferirsi a Catanzaro. Loro sono di Cosenza, probabilmente sono anche, diciamo, come dire, hanno anche una piccola rivalità. Non voglio, mia moglie non si vuole trasferire a Catanzaro, ma ha ragione la moglie, perché chi cazzo ci va da Roma a Catanzaro a vivere? Ma chi cazzo ci va? Nemmeno per tutto l'oro del mondo. Ma cosa vuol dire quello? Ma nemmeno per tutto l'oro del mondo io ci andrei da Roma a Catanzaro. Ma perché mai? Perché, ragazzi, è terrificante Catanzaro, è di una bruttezza incredibile, ma lo dico con grande rispetto delle autorità civili, politiche e militari. Figurati se non ce l'avessi il rispetto, cosa diresti? Risentiamo cosa dissi mesi fa, attaccato da tutti, dal sindaco di Catanzaro, non so da chi. Adesso prendetevelo con la moglie del rettore, dell'ex rettore della Sapienza, quello che era stato nominato, prendetevelo con il governo. Dove cazzo vai? A Catanzaro? A Catanzaro? Che è Catanzaro? Che cos'è? Sei mai stato a Catanzaro? Sei mai stato a Catanzaro? No, sono mai stato a Catanzaro. Non voglio dire niente. Sei stato a Catanzaro? E non è che uno va. No, sono stato a Reggio Calabria, ma tu come turista vai a Cropea, con tutto il rispetto. Voglio dire, adesso non diranno Catanzaro, ma Catanzaro, ragazzi, Catanzaro. Catanzaro è Catanzaro. Sei mai stato a Catanzaro, amico mio? No, ma voglio dire. Non dico niente, non voglio dire niente. Ma sei mai stato a Catanzaro? Io non voglio dire niente. Sei mai stato a Catanzaro? Tu stai distruggendo, non solo hai distrutto questo paese, stai distruggendo le aziende. Ma adesso stai distruggendo l'economia di una città. Sei mai stato a Catanzaro? No, non sono mai stato a Catanzaro. Cosa vuoi dire? Allora, ragazzi, è con noi una porno attrice, una delle più conosciute in Italia, delle top 10 in Italia, Lisa Amane. Buonasera. Buonasera, eccomi, mi stavate aspettando. Io ti aspetto sempre. Parenzo no, perché non ama il porno, ma no, noi non amiamo il porno. No, vorrei chiarire, non è che io non amo il porno, io non amo parlare del porno. No, tu non ami di aver visto. Hai detto di avere visto raramente un film porno, questa è la realtà dei fatti. Ah, beh, questo certo, avrò visto da ragazzino due minuti. Non guardi film porno con la tua figurati, delle attività diciamo più in voga tra gli italiani. Guardo i film di Spike Lee, io non film porno. Scusate. Qual è la pronuncia adatta del tuo nome d'arte, ovviamente, Lisa? Era qual è? Perfetta Amane, la tua, Lisa Amane, bravissimo. Lisa Amane ha 30 anni, da due fa la porno attrice, giusto Lisa? I suoi genitori sono felici di questo suo mestiere e lavoro? Dai, sì. Questa domanda chiedo. Ma guarda, li ho informati in tempo utile, sicché non ci sono stati grossi né problemi, tantomeno sorprese. Vengono a vedere i suoi film, li guardano. Arrivati così oltre. E chissà come mai invece, come mai il mio libro I falsari i miei genitori lo hanno letto? Come mai? Ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Se è un'opera d'arte, se è un'opera d'arte, come mai la sua? Ecco, e quindi si faccia qualche domanda. Come mai, ad esempio, il mio libro viene letto anche dai miei genitori? Smettila di fare il mio non mi vergognerei di far leggere il mio libro a mia figlia, mentre immagino che lei si vergognerebbe di far vedere i suoi film a sua figlia. No, per il semplice fatto perché sono nuda e noi chiudevamo la porta a chiave quando andavamo in bagno, quindi non ci vediamo nudi tra di noi, siamo una famiglia che te l'ha messo in quel posto con questa risposta. Ma è normale, non siamo una famiglia così tanto incestuosa, ecco, solo per quello. Non so la sua come possa essere, ma la mia non lo era. Come mai Lisa Mane ha il profilo Instagram privato invece? Che mi sembra troppi segnalatori. Ah, no, vabbè, ma Lisa, mi sblocchi l'amicizia, l'ho appena inviata. Vabbè, altrimenti quelli sono cazzi vostri. Lisa, scusami un attimo, da 30 anni, da due la pornoattrice, però tu mi devi raccontare una cosa, per tutte le ragazze che oggi che non fanno le pornoattrici e che magari hanno qualche problema, hanno qualche tabù col sesso anale, è diverso, tu fai la pornoattrice, però puoi dare sicuramente qualche consiglio, perché il sesso anale così vituperato dai cattolici eccetera eccetera è cosa nostra, è cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza a quelle che hanno tanta paura, come diceva quell'altro. Esatto, allora tu la prima volta non l'hai fatto tantissimo tempo fa, sesso anale, prima volta quando io è sono stata con Nacho Vidal, ero totalmente vergine, quindi mi sono dovuta ingegnare un po' con Ho capito, tu hai fatto la prima volta sesso anale con Nacho Vidal, cioè prima del set non avevi mai fatto sesso anale in vita tua? No. E come cazzo hai fatto? Quello c'è un cazzo enorme, se il signor Nacho Vidal. Esatto, infatti è stato un po' impegnativo, ma comunque ci abbiamo messo un po', ma siamo riusciti con le dovute accortezze a superare le barriere. Ma non si era allenata con un plug, con qualcosa? Non aveva fatto un po' di allenamento prima? Però sì, l'allenamento comunque è irrisorio, viste le dimensioni del ragazzo. Ma che tecnica hai usato? Che tecnica hai usato, Lisa? Respirazione, due bicchieri di tequila, un bel respiro profondo. Tutto qui. Cioè, respirazione. E tanto lubrificante, chiaramente, sì. Tanto lubrificante, tequila, esatto. e due respiro. Il famoso tequila boom boom. Però ma che poi tecnica è? La tecnica di che cosa? Come si chiama? La tecnica di Lisa Mane. No, ho capito, ma che è una tecnica di respirazione, cioè bisogna respirare bene per farselo mettere nel culo da uno che ha un pisello enorme come il signor Nacho Vidal. Che bisogna fare? Sì, perché la parete anale è un muscolo, quindi comunque va rilassato tramite la respirazione, come tutti gli altri muscoli. Senti, non, ma alla fine della prima esperienza qual era l'effetto? Dimmi la verità, l'effetto qual è stato? Camminava come John Wayne? No, come il dottor House, a dire la verità, anziché la cena abbiamo fatto un aperitivo in piedi, tutto lì. Cioè non riuscivi a sederti. Senti, tempo fa qui Malena disse che alla fine il 90% delle donne vorrebbero fare una double penetration. Ma figuriamoci. Le ami o no le doppie penetrazioni? Ma io sono arrivata fino a tre ce la faccio. Ma poi non mi sono ancora superata. È uno per parte, diciamo così. Fa? Come uno per parte, spiega. Uno per parte, fronte, retro e l'altra parte. La doppia anale non l'hai fatta? Non l'hai mai fatta? No, ancora no. No, ancora. Scusi, limite siamo arrivati a tre. La doppia è uno sopra, uno sotto, il terzo dove si infila? In bocca, dove? In bocca, al terzo. Direi di sì. Nelle orecchie ancora, è una double quella. Ma immagino no, la compagna come sarà contenta. Scusami, come fate in questo periodo a girare, Elisa? Io sinceramente non sto girando, mi sto appoggiando ai social tranquillamente, mi sto prendendo una vacanza, ho ristrutturato casa, me la sto prendendo con calma. Ma il bonus dei 600 euro lo ha avuto dal governo? Non l'ho richiesto, sinceramente. Ah, non l'ho richiesto, ok. Quindi non c'è un calo del fatturato? No. No, perché alcune sue colleghe l'hanno richiesto, mamma mia, è giusto, non ho capito, non ho capito, questo qua non ha un introito perché non dovrebbe prendere dei soldi dal governo, il governo dovrebbe dare i soldi anche alla signora Lisa Mane, qual è il problema? Sinceramente penso ci siano persone più bisognose di me, ma quello è un mio problema, le altre possono chiederlo aventi loro diritto, io non ho avuto necessità, non l'ho chiesto. Se un domani ritrovarmi a doverlo richiedere per necessità sarà un altro discorso. Senti Lisa, ti voglio chiedere una cosa, oltre al sesso anale che è una tua specialità, ma come quella di tutte le pornoattrici del momento, diciamo di questi ultimi 10 anni, cos'è la cosa che ti piace di più, ma anche dal punto di vista proprio personale, sessualmente, cioè cos'è che ti attira di più sessualmente, qual è la situazione che ti intriga di più? Un uomo che sappia farmi fare la donna ogni tanto. Non mi piace prendere il comando, ma a volte sono costretta, perché comunque le persone sono un po' intimidite dal mio ruolo più che dalla mia prestazione. Un uomo che ti sappia dominare, che ti sappia dominare. Assolutamente sì, un minimo. Cioè, che usi anche un po' di... Che usi anche un po' di maestria nel sapermi coinvolgere, nel non mi piacciono i bambi che tremano, quelli intimiditi, cioè, da me. Per esempio, non so, ti piacciono gli schiaffi, per esempio? Dipende come, dipende dove, dipende da chi. Lo spanking. Onesto, dipende come, dove, da chi, chiaramente. Non sono un universale, no, ma voglio come dire, nel privato, tu per esempio, nel privato, per esempio, sei fidanzata, hai un uomo che frequenti, oppure no, non hai... In questo momento no, sono tappata in casa e mi sto dedicando alle piastrelle del bagno. È difficile, però, è difficile. Scusami, allora, lo squirting, un'altra tua specialità. Come hai sviluppato questa cosa qui? Perché molte persone si chiedono, ma vorrei squirtare. Tu come ma sei chi riuscita? Si chiede, a... ma che molte persone, chi molte si donne, chiede? Molte donne che io conosco non vorrebbero squirtare. Vorrebbero squirtare insieme. No, è vero, come vorrebbero per sorprendere l'uomo, chiaramente, ma è una cosa normale. Certo. E tu come hai fatto? Io l'ho imparata per caso, mi domandavo come facessero le altre, ma non mi ero mai cimentata personalmente. Un giorno al mio compleanno mi trovavo al Cocò di Venezia, ho iniziato a praticare il mio show live come di consueto, solo che avevo bevuto qualche bicchierino di troppo, perché essendo il mio compleanno c'erano molti brindisi cordiali, e di conseguenza sono salita sul palco e mi sono ritrovata un pochino più eccitata del solito, ho spinto leggermente con l'addome e ho iniziato a dare uno spruzzo dopo l'altro, mi serviva un idraulico, cioè ho allagato tutta la platea, ho lavato tutto. Ma spiegami, sei riuscita a capire che è una questione di, alla fine, tanto Sgarbi mi chiede come si chiama questa, si chiama Lisa Amane, caro Vittorio, si chiama Lisa Amane, so che l'ami molto, perché ami soprattutto come parla, come si esprime, lui è un grande, un antesignano della frequentazione di pornoattrici. Dimmi un attimo questa cosa dello squirt, come sei riuscita, le pareti, qual è la cosa importante? Allora, praticamente mi sono ritrovata a stendere l'addome all'ingiù e a dilatare le pareti, come noi donne sappiamo fare, con le cosiddette carezze interne, e il getto ha iniziato a uscire comunque a ripetizione. E adesso non riesci sempre? Ci riesci sempre? Adesso da lì sempre, ci riesco adesso. A comando, sì. Prima mi veniva... Ovviamente devi bere molto, situazioni. devi bere molto. Io bevo molto a prescindere, bene. Ma comunque secrezione tutta che si prepara anche quando mi sento disidratata dopo magari uno show. Ma è vero che vendi delle provette? Vendi le provette di squirt? Qualcuno te le chiede su OnlyFans o cose del genere? Ci sono le richieste più disparate sul mio canale OnlyFans di chi si iscrive. Chiaramente per esempio? Ci sono tutte le mie, le calze, le scarpe... le mutandine, le provette con il mio materiale organico proprio interno, quindi lo squirt e tutto il resto. Mi hanno chiesto anche altre cosine. Sì, sì. Mi hanno chiesto anche altre cose, come nel gergo dell'ambiente si chiama la cioccolata. E la pioggia dorata, lo champagne, allora champagne e cioccolata si chiamano. Lasciate che la mente vada. ragazzi, è stupendo. È stupendo. Cara Lisa, ti abbraccio, a presto. Un bacione, ciao a tutti. Ciao. Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.